Due etti di prosciutto crudo. Due etti di prosciutto 89. Crudo. 89. Prosciutto di Parma. Non è crudo, è di Parma. Siamo tornate. Buonasera. Cari. Dopo, oddio, sto mangiando il microfono. Dopo la settimana scorsa di assenza, siamo alla 20ª puntata dell'Accademia. Siamo tornate. Mi dicono qualcosa dalla regia. Ok, abbiamo capito. Perfetto, ci sentite bene? Dateci un feedback in qualche maniera. Un piccione schiantato contro la finestra, va benissimo. E oggi un microfono nuovo. Quante arie, mamma mia. Oggi abbiamo un microfono nuovo, un microfono in più. E abbiamo un microfono in più, perché signore e signori, oggi abbiamo l'ospite internazionale. International. Oh yeah. Oh yeah, vedete, parla anche inglese. Benissimo. Parla, parla, parla, fatti sentire. Ciao, ciao. È una voce che voi già conoscete, indovinate un po' chi è. Attenti ascoltatori, chi è? Sentite? No, non lo scoprono. Allora ve lo dico, Bloody Mary. Yeah! Ancora, ancora, anche di giovedì. Di nome e di fatto. Anche di giovedì, il mercoledì e la domenica e anche il giovedì. Perché, perché ti le bene. Sa tutte. Il Wombat ti vuole bene, esatto. Tutti mi vogliono. Sei la nostra mascotte, è la mascotte della radio, è inutile. No, vi ringrazio perché nessuno mi aveva mai invitato in trasmissione. Come perché no? No, perché sono delle persone antipatiche quelli delle altre trasmissioni. No, non è vero, non è vero. Focale Polveri sì. Ecco, Focale Polveri ecco. Sì. L'altra è troppo punk, l'altra è troppo prog, l'altra è troppo sportiva, diciamo che... È troppo hip-hop. Esatto. La Autodate rimani solo tu e devi fare qualcosa assolutamente. Ma no, Autodate non era su quella sportiva? Sì, sportivissima. Sì, pensavo intendeste quella. Quella è la sportiva. Lui parla sempre di calcio. Chissà, non tutti si altro. Chiederanno, ma come mai hanno un ospite? Attentissimi gli ascoltatori di Radio Wombat, perché se non si ricordano male, due settimane fa abbiamo parlato dell'articolazione, abbiamo parlato della capacità di emettere suoni, della capacità anche di articolare questi suoni in vocali, consonanti, li abbiamo spiegato. Vi abbiamo spiegato tante cose, se ricordate bene andate a riprendervi il podcast in caso contrario. E quindi oggi abbiamo la dimostrazione pratica che vi esula dall'ascolto dei nostri kv e vi farà sentire qualcosa di psicologico. Perché devo parlare in gaelico, chiaramente. Esatto. Quello mi avete chiamato. Elimina tutte le vocali, esatto, dal tuo discorso, presto. Che non so, in gaelico potrebbe essere anche, non lo so, in molisano, non so come si... No, molisano no, ce l'ha le vocali. Sì, un po' sì. In basco. Wow. I baschi non ce l'hanno le vocali. Tutto scritto, ora non hanno neanche più le armi. Le hanno regalate al popolo. Neanche un paese ce l'hanno, però sì, vabbè. Vabbè, sì, allora io come inizio vi faccio sentire un pezzettino. Si può? Si può? Si può, signori, signore! Qui ci metto gli ottoni e qui i timpani. Dore, dore. Disturbo. Sì, sì. Allora me ne vado. Sì! Ma è l'ora. È l'ora. È l'ora della battaglia. Tremo! Che c'è? Chi è? Sono venuto per la lezione di canto. È scappata. Che cosa? L'ispirazione. Ah. Sto scrivendo ciò che mi darà la ricchezza. I milioni! Guardi, osservi, giudichi. Roma Fiorentina 1, Catania Messina 2, no. Juventus e Milan per... No, è qui il mio poema musicale. Strana come lezione di canto. Però lezione di canto è la parola chiave, se vogliamo. Ma non ti faremo perdere l'ispirazione, lo giuriamo. Giuro, ecco, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro. Ci terrei. Fiorentina Roma 1-0. No, anche 0-1 probabilmente. Sì. Ecco, fantastico. E quindi niente, dai, raccontaci qualcosa di interessante che ci possa illuminare le nostre, sì, piccole menti. No, esatto. Allora, perché le bruschette, perché ho coniato questa cosa, piace. Ho deciso che vi chiamo le bruschette. Perché arriviamo ora all'aperitivo, vero? Quindi certo. Anche le bruschette. Esatto. Ogni ora è buona per l'aperitivo. Per mangiare è bene. E le mie bruschette mi hanno invitato perché effettivamente devo fare outing e tra le varie cose che faccio, troppe, insegno anche canto e mi occupo di voce, soprattutto in relazione al cantato. E quindi niente, per questo... esatto. Vedete che prodotti che ho? No, vedete, ascoltate, ecco. Lei è la nostra insegnante, è vero? Sì, sì, sì, sì, sì. E non so se forse questa cosa la dovevamo dire, era. Però vabbè, vabbè. Sì, no, effettivamente mi hanno invitato le bruschette perché per aiutarle a spiegarvi un po' l'uso delle consonanti, delle vocali nella voce e in generale come funziona un po' l'apparato fonatorio, giusto? Esatto, è qui che scopriremo un sacco di cose interessanti. A palla! Sì, sì, cara mia. Allora io ho un foglietto dove mi sono scritta tante cosettine, però a un certo punto mi dovete fermare perché poi io potrei andare avanti. Ah, sai quando ci si diverte, sai, no? Com'è? Possiamo, sì, battere i record di logorrea delle altre trasmissioni. Vai, sì, sì, sì, esatto. Tonight Live. Sì, qui abbiamo diversi. Il grande record ultimo è Tonight Live 62. Sì, abbiamo dei foglietti in regia, voi purtroppo non li potete vedere. E sì, il record di logorrea, sì, direi che l'ha battuto Tonight Live 62, pazzo. Il precedente era detenuto da Da Gino, mi sa. No. Gino 47 e il precedente ancora Dama 42. Infatti stavo cercando di capire cosa avevano scritto. Insomma, ragazzi. No, io non sarò, no, proprio non ne sono in grado. Non ti faremo stancare così tanto. No, infatti stai, ho una voce da te preservare. Infatti. No, più che altro non è che tutte queste cose da raccontarvi, però allora, parlando di vocal tract, che è una cosa che è molto, intanto questo termine ve lo dovete segnare perché è molto importante. Capito? Vi volevo fare un piccolo riepilogo veloce, una piccola panoramica di tutto quello che succede nel vostro corpo quando date potere alla voce. Quindi non necessariamente quando uno canta, anche quando parla, eccetera. Ovviamente questo studio si fa In particolare quando boh, per le persone che usano la voce con un po' più di perizia, quindi i cantanti, ma anche gli attori, ad esempio, mi viene in mente, o cosa molto trascurata, ma invece si dovrebbe fare, gli insegnanti che hanno una voce che usano tantissimo e che spesso viene logorata e trattata malissimo perché non la sanno usare, non hanno mai imparato a usarla bene e i risultati sono disastrosi, che muoiono. Infatti, posso dopo fare... 15 anni di carriera, non hanno sono più afoni. Io posso fare un intervento linguistico? C'era la propria matematica da noi in Emilia che veniva chiamata Galina col Badec. Ovvero è la gallina afona, perché poveretta, a forza di urlare, la cara professoressa Acquaruti era rimasta completamente afona. Lei iniziava la lezione, dopo 10 minuti iniziava tipo a starnazzare, non si sentiva più niente. Queste quindi, sì, sono indicazioni che danno anche agli interpreti. Esatto. Anche sì. Agli interpreti nei vari corsi, di varie lingue, insomma, in generale, interprete. Viene fatta tutta una parte appunto sulla gestione della voce, sulla posizione da mantenere per rendere più libero il diaframma, insomma è una cosa che riguarda varie. Poi c'è da dire che c'è una grossa parte che purtroppo è più difficilmente controllabile, che è quella relativa allo stress, nel senso che se io ho da tenere a bada un branco di bambini, cioè magari c'è persone più pazienti di me sicuramente, però io impazzisco e faccio vi ammazzo tutti, e la mia voce chiaramente viene fuori male. Quindi sì, c'è anche una grossa componente di stress che, come vedremo, influenza un bel po' la voce, perché insomma è tutto collegato al cervello, insomma non è che si tratta di saltare un ostacolo e ciao, si tratta di azionare dei meccanismi che di fatto sono collegati sia agli altri organi sensoriali sia anche al cervello, ovviamente. Quindi se il cervello ne è influenzato e è in una situazione di stress, anche la voce non sarà messa a dura prova. Per prima cosa che fa perde la potenza, cioè si perde proprio, si tende ad abbassare. Sì, si tende a usare i muscoli, quando invece un corretto uso della voce presuppone usare meno muscoli possibili. In realtà nello studio del canto, comunque nello studio della gestione della voce, si tratta di semplificare il più possibile, limare, togliere tutti i riflessi che sono di troppo, tutte i muscoli involontari che vengono coinvolti, anzi cercare di aprire tutto, la parola d'ordine è aprire tutto, smarmella come biascica, perché fai meno fatica possibile e tutto ti viene molto più bello e naturale, tutto molto bello se non fosse che in una situazione di stress o comunque di implicazioni psicologiche di varia natura, chiaramente uno insomma non è che... Cioè è tutto rilassato e bellino e tranquillo, soprattutto se sei su un palco, insomma magari ecco, cioè la gola ti si contrae perché sì, magari c'è tutta la vena che pulsa perché c'hai l'ansia, ecco, e quindi ha voglia a studiare accanto. Ma vabbè, ma su questo ci si può fare giusto, insomma. Basta studiare un po'. Sì, sì, sì, ci sono delle cose, dei condizionamenti che si fanno per rendere il tutto più automatico, ma vabbè, sennò poi davvero si sta 3 ore ed è pure troppo. Per quello che può interessare alla brusca e ai bruschettari, i nostri ascoltatori, diciamo che è vero che sono le vocali, le consonanti, tutto quello che dicevate l'altra volta, hanno una grossissima importanza e dopo lo vedremo, però tutto nasce dal fiato e dalla gestione del fiato, quindi immaginatevi la chitarra, le corde della chitarra vibrano, coinvolgono l'aria e si genera una vibrazione che genera delle frequenze sonore che poi vengono amplificate dalla cassa di risonanza della chitarra, per esempio, no? Però se tu questo strumento per assurdo lo fai vibrare in una situazione senza aria, non esiste, non so se questo esperimento sia fattibile, forse suono sotto vuoto. Sì, se metti una chitarra sotto vuoto non funziona. È il motivo per cui generalmente sott'acqua quasi nessuno strumento riesce a emettere un suono. Sì. Anche se è stato fatto un esperimento poco tempo fa, mi sembra, da una orchestra islandese, dove hanno creato un suono sott'acqua, però hanno usato una tecnica particolare che è completamente naturale. Hanno barato. Ai soliti. Certo, gli islandesi. No, infatti la cosa del fiato effettivamente è il motore principale e nello studio del canto in realtà è una di quelle cose su cui si sta proprio per anni, perché innanzitutto ci sono, è fonte di grosso condizionamento sbagliato, cioè generalmente si respira male, si respira, soprattutto le donne respirano non col diaframma, insomma c'è tutta una serie di ragioni proprio fisiche. E poi perché insomma la giusta quantità di fiato, come si riesce a dosarla, come si riesce a incanalarla anche nel resto del corpo e come si gestisce, determina un suono piuttosto che un altro. Quindi tutto parte dal diaframma. Il diaframma, senza dilungarci troppo, non è nient'altro che un muscolo che sta più o meno all'altezza dello sterno, in posizione di rilassata sta sotto lo sterno. Lo potete, se è una cosa che vi interessa, lo potete sentire mettendovi una mano sotto lo sterno, cioè proprio sullo sterno, piano, e tossendo piano, però. piano. Però basta che tossite, abbaiate, sente. Anche abbaiando e lì sentite che c'è qualcosa che dà una botta. Bene, quello è il diaframma. Il diaframma lo possiamo immaginare tipo una sorta di cuscinetto, di ombrello anche, insomma un aggeggio, che sta lì fermo, un fancazzo, cioè quando non c'ha da fa niente sta lì fermo, rilassato, tranquillo. Quando io inspiro, quindi faccio entrare l'aria, e questo diaframma si compie un movimento muscolare, va in giù, immaginiamoci tipo un, non so, o un palloncino che si gonfia, o anche un elastico che si tende, quindi l'elastico in fase rilassata sta normale, poi si tira, il diaframma va in giù verso l'ombelico, per capirsi, quindi si gonfia tutto l'addome, anche dietro, le costole, tutto quanto. Quando poi espiro, quindi butto fuori l'aria, piano piano il diaframma, a seconda di quanto sono bravo a non farlo risalire tutto d'un botto, chiaramente è come l'elastico, no? Se lo lascio andare d'un botto, boom, viene via tutto. Se invece lo faccio andare lentamente, anche la gestione del fiato è più controllata. Quindi il diaframma risale e spinge l'aria in su verso la trachea, verso quello che viene chiamato appunto il vocal tract, di cui parlavamo prima. Caspita, che bello, brava. Tanti clap, clap, clap. Solo professioniste Radio Wombat. Capito. E non so se volete già, vi siete già stufati e volete già mandare... No, io chiedevo anche l'aiuto del popolo a casa. Cioè... ipotizzate un argomento qualsiasi, mandateci una mail dicendo vorremmo che parlasse di tale argomento, noi vi troviamo un ospite della radio che ne sa parlare. Non io. Una grande sfida, chissà, perché ne hai altri 15 almeno. Tipo di gatti, di quei bengatini. No, sì. Io invece volevo far sentire uno dei tuoi mostri del canto, così magari qualcuno inizia anche a farsi un'idea. Che ne dici? Facciamo sentire questo mostro, gli eroi, sì. I grandi, uno dei tanti eroi del canto. Boom boom. Blum blum. Boing. You stupid kite, come down out of that tree. Kite kite. Brrr. Chuff chuff chuff. Clam clam. Clackety clack clack clack. Chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, slurp, go, barf, gosh. Da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, tickle, da-ling, erk, phew, yew, fst, brr, brr, bst, grr, gong, crum, shh, nah, nah, knock, knock, puff, ouch, pam, pam, phew. Black, black, blinkety, blink, blink, blop. I'm Frieda and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pow, pop. Popora, popora. Pow, psh. Dung, dung, dung. Sempre libera di Gio fa. She's got a ticket to ride. She's got the weather tomorrow, it must be cloudy. So, knock, knock. Oh, smack. Grunt, slap, glab, zbroom, crumb, hiss. Rumble. Zbam, swagger, to scrag, the scrap, scrum, clash. Oink, oink, oink, buk, buk, buk, buk, ko, z, moo. Bang, bang, bang, bang, cha, bang, bang, ugh, kaplunk. Slam, flap, smash, splat, snap, smack, snort, splash, flap, tick, tack, spring. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud, stomp, stomp, stomp. Zvoom, swash, sweetuck, tweet, tweet, tweet, tim, tum, tum, tum, tum, tum, twang, rup, rup, rup, yowie! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yeah! Yuck, yuck, wump, wump, whoosh. Zing! Doom! Zowie! Bang! Ora dobbiamo fare un sacco di versetti anche noi. Adesso dobbiamo ripetere tutto. Fatti i versetti. Pronti? Superman! Bravo, eh? Perfetto, abbiamo imparato tutto. Bravissime, sì. Promosse. Era Katie Barbarian. Fantastica. E vabbè, lei è una specie di maledetta leggenda che faceva tutte queste cose... Bene, ha fatto anche di ben altre. Diciamo, sì. Sì, non è che passava la vita a fare. Però, insomma, ecco. Questo però era significativo. Sì, era molto bruschetta anche lei. In era questo, era un contesto bruschettoso. Era anche sì, un sì. po' polipoesia, quelle cose strane. Beh, anche perché si tende a sottovalutare l'uso normale che si fa della voce. Cioè, sembra solo che la voce la usiamo, ok, adesso canto una cosa. No, cioè, anche se faccio sto usando la voce, cioè nel senso ovviamente soprattutto questo tipo di lavoro, di esercizio, poi cioè lo fai solo se hai imparato, cioè non puoi barare. No, però è anche vero il contrario, ovvero se tu riesci anche giocando a fare dei suoni che non pensavi di riuscire a fare, cioè se, che ne so, io ti dico fai il verso del gabbiano, tu sicuramente fai un verso stridulo altissimo, che state se ti tranquilli, metto... non lo farò. No, infatti, era giusto per dire. No, però che se ti metto invece al pianoforte e ti dico fammi questa ottava, così tu ti impanichi e dici no, oddio, io non ci arrivo così in alto. Se ti dico facciamo il gabbiano, sì. Che... lo fai. Perché non perché effettivamente c'è abbiamo... C'è anche la componente ludica che magari ti elimina ti una disinibisce. Parte di inibizione. Sì. E poi perché il nostro corpo generalmente ha molti più colori a disposizione di quelli che pensiamo. Ha molti colori. Quanto sono sinestetica. Mamma mia, perché poi ora non la vedete, però è seduta su... Perché lei parlano di posizione, di uscita della voce con il diaframma. Ma è seduta in uno sgabellino come un uccellino con le gambine a cavallate, tutta posa, anche vestita un po' colorata, le manine in grembo, sì, è vestita di grigio, sì, sì, con un'eleganza, no, guarda, c'ho anche del rosso, oh. Sì, sì, sì. E questo dimostra padronanza della voce e dei colori, e dei colori, sì. E delle righe, perché ci sono righe dappertutto. Sì. Io tipo tra un po' mi esce il sangue dalle orecchie. Sono un po' epilettica, sì, è vero. Scusate. Senti, ti va invece di raccontarci qualcosa sull'apparato vero e proprio, cioè sull'apparato fonoarticolare? Perché allora eravamo arrivati al diaframma che spinge il fiato, è tutto molto bello, è tutto molto importante. E anzi si tende a cercare di togliere la centralità, soprattutto nello studio del canto, dalla gola, per anche proprio appunto per togliere quell'ansia che generalmente si attribuisce alla gola. E ok, va tutto bene, però non è che la gola non fa un cazzo, cioè, anzi, è piuttosto importantina. Quindi quantomeno bisogna capire che cosa succede. E anatomicamente quello che succede è appunto... il fiato, l'aria, arriva in quello che viene chiamato il vocal tract, che è un modo semplicemente per indicare tutto un insieme vocal di organi. Vocal tract. Questo è importante. Foniatri qui, proprio... Che, no, che spero non mi stiano ascoltando i foniatri. Anche noi lo diciamo di tutte le altre figure specialistiche ogni volta. Io confido, sì. Confido nell'ignoranza del nostro pubblico. Sì, sì, speriamo. Comunque sì, l'aria arriva nel vocal tract, che essenzialmente è un aggeggio che comprende un po' tutta una serie di organi, di ossi, di cartilagini, di muscoli, tutta una serie di cose, cavità, tra cui c'è, che ne so, la laringe, poi la trachea, l'abbiamo già nominata, le corde vocali, ovviamente, le false corde vocali, che non tutti sanno che, ma esistono anche le false corde. I facsimili corde. Sì, perché le false corde vocali sono delle cose cicciottose, che sono quelle che si fanno un po' schifo. Sono orribili da vedere. Con le guance dentro, no? Sono un po' così, sono mucose di fatto. Si fanno un po' schifo. Che però sono quelle cose che ti fanno fare quei suoni tipo queste cose qua. Cioè che producono dei suoni che non passano dalle corde vocali in realtà, ecco, tendenzialmente. E poi c'è l'epiglottide, insomma ci sono tutta una serie di aggeggi, ecco, che attraverso cui il fiato passa. La laringe, ad esempio, che è uno degli apparati più importanti nella fonazione, è qualcosa di mobile che si alza e si abbassa a seconda della quantità del fiato che deve sostenere, e che crea poi aiuta a creare un suono più o meno alto. Hai capito? Uno dice sta ferma la laringe, invece no, no, si muove e ve ne accorgete se voi mettete il dito sopra il pomo d'Adamo cosiddetto, perché lì quando parlate sentite che si muove, soprattutto se variate da un tono basso a un tono alto. Se facciamo una prova e parliamo così tutti, allora poi si muove, mettete un dito nel pomo, sì, no, no, non forte, che poi vi spaccate leggero. Perché ovviamente la voce va sempre riscaldata, ma di questo forse c'è lì ce ne sarebbe da dire. Sì, qualcosina lo diciamo. Sì, perché può servire in realtà tutti i giorni, nel senso anche la mattina quando uno si sveglia. No? Beh, il riscaldamento più veloce che vi posso dire al volo è quello che vi facevo prima, che coinvolge le false corde e quindi non coinvolge le corde vere, quindi di base è rilassante per forza. Ed è quello che fate quando vi svegliate la mattina e non avete voglia di andare al lavoro o a scuola. Tutti i giorni. Esatto, tutti i santi giorni. E fate... questa cosa qua, che è un po' fa venire anche un po' di sonno, in realtà. Perché sì, ricorda proprio quel momento in cui lo fai, ma... E se lo fai stiracchiandoti è ancora meglio. Proprio ti rilassi, fa... Questa cosa qua in realtà riscalda Soporifero. Un sacco. La signorina Bloody Mary ha fatto anche così con le mani, che per dire du coglioni mi devo alzare anche stamattina. Io con la mattina ho dei brutti rapporti per quello. Ma vabbè. Quindi diciamo la laringe che è mobile e che essenzialmente si occupa di regolare, fa tante cose, ma si occupa di regolare la pressione e la velocità del fiato, come dicevamo, perché nel vocal tract è tutta una questione differenza di pressione, che quindi genera una frequenza piuttosto che un'altra. Poi a quel punto il fiato passa nella glottide, dove al cui interno la glottide essenzialmente è una cavità che contiene le corde vocali. Le corde vocali ce le dobbiamo immaginare non come delle corde vere e proprie delle della chitarra, per capirsi, sono più una sorta di labbra in sezione, perché sono in sezione lungo il tratto vocale, lungo la trachea, però sono come delle labbra. Lo sta facendo, è questa cosa bellissima che fa sempre quando parla delle corde vocali, mette le manine davanti così, come me le palmo a far in giù, vedere in radio? È bellissimo. Allora io descrivo, mani avanti, palmi in giù, un po' slamate, tipo dammi una bacchettata in tutte e due le mani, le mettete vicine e poi le apre, cioè la parte mediana si allontana e si riavvicina, e questo è il movimento che fa le corde vocali. Incredibile. No, almeno le mie. Bellissimo. No, perché sì, sono come ora. Ti stavo per chiedere di farlo prima ancora che tu iniziassi, vedi, a fare questo movimento. Perché lo sai, sono italiana e gesticolo. Vedi? Come sono italiana. È bellissima. Oggi è tutta una citazione di Boris. Sì. Vabbè. No, perché le labbra sono come, cioè chiaramente le labbra nostre sono in verticale. Invece immaginatevi delle labbra in orizzontale. Non fate illazioni a cose sconce. Nessuno di noi aveva pensato a niente. No, dicevo la bocca in orizzontale. Stavo pensando alla bocca in verticale. No, vabbè, colpa mia che ieri ho fatto la puntata sulla blasfemia e sono una scaricatrice di porto da ieri. Scusate. Ci vuole la Pasqua, sono vicina. È così. Fortuali, non sono soltanto io allora. Per niente, guarda. Sfondi una porta aperta. Quindi c'è queste corde vocali che essenzialmente, a seconda di come stanno aperte o chiuse, fanno passare più o meno fiato, chiaramente. E il fiato, passando attraverso di loro, che sono poi di fatto delle corde, sì, effettivamente non hanno parti dure, non c'è né ossi né cartilagini, sono mollicce. Mollicce e composte anche da grasso, forse. Sì, o sono tese. È un grasso, anche lì è difficile in radio farvele capire, ma sì, sono come si può dire? Sì, è un tessuto adiposo, comunque un tessuto molliccio che però è molto teso. Okay. Quindi non è cicciottello. Dicevano che è simile a quello del seno. Il seno femminile, questo non okay. Lo so, tessuto adiposo leggermente. Sì? Leggermente spugnoso, però vedi. La parte sotto è un tessuto adiposo tipo di solidi. E non lo so perché. Ecco, anche lì, no? A parte la mia proprietà di linguaggio che fa schifo. Però in ogni caso è difficile queste cose se non sei proprio un medico, perché non le vedi. Ce l'hai, certo, all'interno. Non le puoi neanche toccare, perché se lo fai ti fai male. Sì, quindi è interessante per i cantanti vedere, ad esempio, tutte le laringoscopie, queste cose qui, perché per la prima volta vedi queste cose incredibili che hai dentro di te, che non avevi mai visto. Però sì, sono queste cose un po' schifose, che però a seconda di come si allontanano e si avvicinano, oltretutto a seconda del, è un meccanismo che si influenza a vicenda, cioè se io butto all'interno del vocal tract una grossa massa di fiato, chiaramente le corde vocali si muoveranno più velocemente, cioè reagiranno di più, no? Saranno sottoposte a una pressione maggiore. Tipo come quel giochino che si fa con la carta delle caramelle per farla fischiare. Esatto, esattamente, sì. Anche un foglio di carta, banalmente, sì. Se ci soffiate vedete il movimento che fa. Oggi io sono la signorina degli esempi. Meno male, guarda. È la signorina esempiona. Sì. Chiaramente al contrario, se ce ne metto di meno, è la pressione di meno, vabbè, è tutta una serie di cose. Per esempio, banalmente, più veloce è la vibrazione che viene generata dalle corde vocali, e più la frequenza e quindi la tonalità è alta. Al contrario, più lenta è la vibrazione, più il tono è basso e la frequenza, insomma, è bassa. Quindi per far vibrare tanto e velocemente le corde, siccome il fiato si presuppone che sia sempre più o meno lo stesso, uno poi lo può regolare, però insomma, a parità di fiato, di quantità di fiato, cosa cambia? Cambia le corde vocali e l'adduzione delle corde vocali. Se le corde vocali... Ho rifatto il gesto. Sì, l'ha rifatto, confermo. Delle mani. Cioè, prossima volta filmo tutto. No, oddio. Si diceva prima, facciamo come su RTL. Sì. Andiamo alla diretta. Però con le maschere da scimmia. Dio. Cioè, chiaramente, se io le corde vocali le tengo chiuse, l'aria ci va a sbattere di più e le fa vibrare più velocemente. A quel punto si genererà un suono più veloce, altrimenti, scusate, più alto, più acuto. Se invece le corde vocali sono più aperte, lasciano passare più aria, le corde vocali vibrano più lentamente e si genererà un suono più basso. E che tendenzialmente poi lo potete sentire perché è un suono più arioso. I suoni bassi di frequenza sono tipicamente dei suoni molto ariosi, con molto fiato. I suoni, cioè tipo se faccio un suono che per me è bassissimo, è molto arioso. Se faccio un suono molto alto, questo qui è un suono piuttosto, cioè con poco fiato. Se lo faccio bene, se lo faccio una merda, no, il fiato viene un po' a caso. Tu lo fai bene, dai, sì, più o meno, sì, dipende, ti promuoviamo. Quindi, e vabbè, e poi siamo arrivati alle corde vocali, a quel punto la parte posteriore della gola, dove ci troviamo adesso, perché il pomo d'Adamo sul retro c'ha la nuca, no? Lì in realtà è collegata alle trombe di Eustachio, che non vi sono, come che si non dice, sono le tube di Falloppio, no, e se no si torna, no, labbra, tube, no, la lezione di anatomia sessuale non me la faccio io, prossima puntata sarà in grado, ragazzi, sarà la Pasqua. Quindi le trombe di Eustachio, da qui, che poi a cui sono mi insegnate, soprattutto Nenia mi insegna, ci sono tutti i recettori neuronali, tutte quelle cosine belle. Quindi da lì si capisce che c'è un collegamento molto diretto e niente affatto teorico tra la voce e l'udito, per esempio, che quindi a seconda di quello che io sento so reagire istintivamente subito e parlo, cioè a azione e reazione tutto è collegato e non è che l'udito ce l'ho dall'altra parte del corpo e deve fare tutto il giro, cioè tutto collegato, che si fa un gran lavoro qui, è tutto vicino, è tutto veloce, siamo stati creati con astuzia, con una certa perizia, sì. Ecco, anche se il mio medico dice che invece il corpo umano fa schifo, però sì, vabbè, però tanto sopravviviamo, dai. Sì, sì, lui si dice fa proprio schifo. Le trombe di Eustachio sono quelle che quando ci troviamo in determinate situazioni, tipo vedi in aereo piuttosto che in una galleria del treno, dobbiamo stappare, dico io, perché esatto. Sì, la pressione gli fa cambiare a entrambe la percezione, si crea come un vuoto d'aria. Eh sì, e poi regola anche l'equilibrio, tutta una serie di cose. Altro motivo per cui, come si diceva, la voce è facilmente influenzabile dallo stress, nel senso che di fatto lì ci sono tutti i recettori, tutta una serie di robe che dietro la nuca, lo sappiamo bene, è un punto delicatissimo, molto vitale. Se io ho dello stress fisico, boom, mi si collega subito. Quindi, che ne so, in una situazione anche di forte stress uditivo, difficilmente io potrò cantare bene. E da lì il chi fa grind, vabbè, dovrebbe farsi tutto. Ma vabbè. Cari amici. Sì, cioè, chiaramente presuppone un impegno, una concentrazione ancora più difficile, perché sì, tu c'hai uno stress uditivo molto grosso e devi mantenere un karma, uno zen. Generalmente danno la colpa alle casse spia. Sì, certo. Sì. Al sì, volume dell'impianto, stupidi, qualcosa di tecnico. Stupidi, ingenui. Stupidissimi. E sì, e poi da lì, come si diceva, dalle corde, che diciamo si arriva finalmente alla bocca e ai vari risuonatori facciali, quelli che vengono chiamati le casse di risonanza del corpo umano, che sono fatti di cartilagine essenzialmente, non sono ossi, quindi non fanno rimbalzare il suono, ma lo assorbono, quindi un po' come si sa dall'acustica in architettura, alla stessa maniera, se io ho delle cartilagini, queste cartilagini mi aiutano a colorare il suono, cioè lo ammorbidiscono e lo assorbono in qualche maniera, per cui il suono che esce fuori è un suono migliorato grazie alla bocca e alla faccia, agli zigomi, a tutta una serie di cose. Per esempio, poi vedremo dopo con le consonanti e le vocali, sono fondamentali nella faccia di un cantante o comunque di uno che usa la voce, che ne so, il palato molle e quello alto sono fondamentali, i denti, il naso, la lingua, che poi vedremo, veicola il suono da una parte all'altra della, ecco, infatti, perché poi in tutto questo la bocca serve anche a direzionare poi questo suono, cioè, sì, dal momento in cui tu hai padronanza dalla laringe in giù, tutto quello che poi accade nella bocca serve a direzionare e a decidere che il suono diventa così. Perché lo direziona in un'armonica piuttosto che in un'altra, lo colora e con un colore piuttosto che in un'altra. E chi era il maestro, uno dei maestri? O chi era uno dei maestri che ci ha insegnato un sacco di cosine carine? Lui. Accidenti, quello con il nome e il cognome. Io questo proprio ve lo devo far sentire, okay, perché è un capolavoro. Il dio. E lui, sì, ragazzi, parte. Dire una paena giro misero di misi cosi. Oggi dirò su misi, sto zizi misi cosi, sta nevica zira su misi. Sti zizi misi cosi, una paena giro misero di misi cosi. Oggi dirò su misi, sto zizi misi cosi, sta nevica zira su misi. Sti zizi misi cosi, una paena giro misero di misi cosi. Oggi dirò su misi, sto zizi misi cosi, sta nevica zira su misi. Sti zizi misi cosi, una paena giro misero di misi cosi. Mi dirò sti zizi misi cosi, una paena giro misero di misi cosi. Giro misero. Demetrio, perché lo scioglilingua? Che significa? Lo scioglilingua è stato usato, credo, per la prima volta da Petrolini in Italia. Questo scioglilingua, forse eseguito qui, proprio in questo tempio, parla della cicala e il suo doppio probabilmente era la divinità, cioè utilizza 25, quasi una trentina di parole, abbastanza diabolico, una trentina di parole in un giro di 3 secondi e mezzo che poi ripeti. Questi sacerdoti ripetevano per delle ore, andavano andati per delle ore, adesso io dico se vanno avanti per 4-5 ore facendo questa cosa qui, vanno veramente con la testa di fuori, gli succede qualcosa. A un certo momento, dopo 4 ore, gli succedeva qualcosa e trovavano Dio, la divinità, eccetera. Non è altro che un coinvolgimento della respirazione che agisce sul nervo simpatico, quindi fai un Era lui, il signor Demetrio. Ragazzi, qui non c'è niente da insegnare a nessuno. Inchini, chapeau. Come si dice? Tanti chapeau. Questo era lo scioglilingua greco. Sì, tra l'altro, se vi interessa, non mi ricordo più, secondo me si chiama Vivere la voce. Sì, se non sbaglio, sì. Comunque, documentario bellissimo, dove c'è Demetrio Stratos come protagonista e tutte le indagini che questo foniatra fece su di lui. E insomma, è un po' il primo che ha fatto degli studi sulla voce, perché non è che, almeno così approfonditi, perché non è che ancora negli anni 70-80 ci fosse questa abitudine, ma anche adesso insomma si fatica, sì, al tempo ancora di più, soprattutto da un punto di vista cioè legato alla voce artistica in un certo senso, cioè si indaga la voce sì così come organo, però lui era un po' il primo che veniva studiato in quanto persona che ci faceva anche delle cose particolari con la voce. Anche perché infatti iniziava finalmente anche a usare, cioè si iniziava in generale a usare la voce anche in un altro modo, ci sono stati sicuramente degli altri geni che però lo erano in quanto cantanti di voi bel canto, voi di una tipologia di canto e non si sforava da lì, cioè quello era il loro lavoro e così rimaneva. Si usciva dall'impostazione. Sì. Sì, tra l'altro, cioè, anche adesso in realtà si fa fatica, nel senso che ci sono degli esempi eccellenti di foniatri, di personaggi che si occupano di queste cose e le indagano appunto con questa ottica. Però non è che ancora sia così frequente, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo in realtà. Però sì, ci sono degli esempi molto molto interessanti. E lui, tra l'altro, Demetrio Stratos è stato, vabbè, uno di quelli che ci ha insegnato, almeno in Italia, ma non solo, che cos'erano le diplofonie, tutte queste cose qua, il canto armonico, che dopo so che lo approfondiremo. Però insomma riusciva a fare delle cose con la voce incredibili, quindi vabbè, ma che ne stiamo a parlare a fare. Comunque, Vivere la voce, se vi capita, guardatevelo questo documentario perché è molto bello. Si trova su YouTube a molto pezzi, facilmente, sì. Si è diviso in tre, se non sì. sbaglio. Allora, fatica da poco. Sì, sì, sì. Se lo può guardare tranquillamente. Anche. Sì, c'è lui che fa delle robe impressionanti, no? È bellissimo, vabbè, vabbè. Ma lo vogliamo ascoltare ancora? Chi vuoi? Di nuovo Demetrio? Per sempre. Ascoltiamo lui tutta la sera. Mettiamolo quando non parla, quando non fa gli scioglilingua, quando fa qualcosa di più canonico. Sentiamolo in qualcosa di più artistico. Che bella questa, mi piace tanto. Ascoltiamo ora. Questa spacca tantissimo. Fugli chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Abbiamo riascoltato perché effettivamente tutti. Eccoci qua. L'abbiamo sì. risentito. Eh sì, sì, sì. Gli vogliono tutti un gran bene. Scusate, eravamo un attimo intenti a fare i volumi. E Radio Wombat, soprattutto i nostri amici del programmino prog. Programmino prog. Il prog programma. No, vabbè, dai, era bellissimo, in qualsiasi forma lo sentiamo, Demetrio Stratos. Io confesso di essere una grande fan. Vi avrei potuto anche tediare con Mike Patton, che è un altro di quelli che io cito sempre come grandi guru vocali, però mi sembrava eccessivo, senza dai. Senza troppi virtuosismi lui, è abbastanza, non è che sia dimesso, però... Beh, ogni tanto fa della roba, tipo con John Zorn ha fatto della roba incredibile. Ma no, sì. Però sì. È un'estensione vocale pazzesca. Delle madonne. Sì. Sì, è un sottovalutato perché alla fine gli altri sono tutti più seriosi. Lui viene viene un po' da cosa? Perché è arrivato nei Faith No More che aveva quanto? 17 anni. Capito, 18, era un pischello. E poi è finito con John Zorn. Cioè, ma che gli vuoi dire? Nulla. Io comunque l'ho visto a Bologna una volta mentre cantava Giardini Margherita e grande struggimento di tutte le fanciulle. Cantava Giardini Margherita nel senso che passeggiava ai giardini e cantava. In realtà aveva improvvisato una cosa pseudo non solista, ma c'era un'altra con lui che suonava la chitarra e lui era, penso, nel periodo dei Mondo Cane, era vestito di bianco. Ah, che figo. Io l'ho vista anche stando fuori, però, perché ero povera e non gli ho dato i soldi dei biglietti. Ma nemmeno stupida. Noi, è proprio successo per caso. Che bello. Vabbè, no, scusate, non ora... Ma il patto una parte. Poi ci distrae. Alle fanciulle. Ci distrae. E quindi eravamo su tutte le risonanze, no? Della bocca, esatto, eccetera. Il nostro viso, quanto può far risuonare la voce e il suono. E infatti arriviamo quindi alla cosa per cui poi mi avete chiamato. Eccoci al succo. Nenia è andata un attimo fuori dalla regia, ma è scappata perché questa è la parte grossa. Sì, perché essenzialmente di linguistica e quant'altro la questione si incrocia con la voce sulle vocali e le consonanti. Come avevamo detto 2 settimane fa, appunto, sulla parte di articolazione, cioè del segmentare il fiato emettendo un suono che possa poi essere accorpato all'interno di una parola, quindi che è un codice praticamente che porta, diciamo, un senso compiuto alle parole. Noi parliamo, emettiamo un suono e questi suoni, grazie alla loro segmentazione, hanno un senso. Però ci fermiamo un attimo prima alla segmentazione. Sì, perché allora io chiaramente mi occupo della questione di formazione del suono in quanto suono. Esatto. Che poi questo, ovviamente, più suoni messi insieme formino una parola. Questo è altra cosa. Nel canto infatti non è troppo importante, non è importante, no. Magari un attacco, è importante un... Sì, sì, è importante la gestione delle singole lettere, paradossalmente, cioè o dei dittonghi volendo, ecco. però sì, sì, la parola di per sé, è chiaro che se devo dire una parola difficilissima, un 40 S, 7 Z, insomma, chiaramente la cosa impatta. Ma anche soltanto dire cacca, è difficilissimo attaccare dicendo sì. Cacca, giusto Mina forse l'ha Sarà fatto. Per quello che non lo mettono mai nelle canzoni, altro che Mina censura. L'aveva messa in ma che bontà, però non era l'attacco, era quasi alla fine, cacca. Ecco, Mina, ad esempio, è un ottimo escamotage per raccontare, cioè, per esempio, Mina aveva, possiamo dirlo in radio, tanto Radio Wombat, mica siamo alla Rai, esatto. Sveliamo questo fatto, cioè, Mina aveva un paroliere, o più parolieri, che gli scrivevano i testi a modino, in modo che le consonanti arrivassero tutte nel momento giusto, le vocali negli acuti fossero le vocali giuste, per cui il senso di quello che stava cantando, ma chi se ne frega, cioè, alla fine... diceva spesso dei testi che non avevano alcun senso. E vado su tutte al punto giusto, perché comunque erano studiate per far risaltare le sue caratteri, le sue potenzialità vocali, che indiscusse, per carità di Dio. Però ecco, è anche quella la ragione per cui, se ascoltate i pezzi di Mina, dite ma che cazzo sta dicendo? Iniziare dicendo brava con una B labiale che è quasi vibrata vi consente di dare un'emissione, se non sbaglio, del fiato, del suono regolabile. Esatto, sì, perché allora, diciamo, le vocali e le consonanti hanno due tipi, almeno, due tipi di diverse importanze. Una è la risonanza, cioè quella che si diceva prima, che a seconda della vocale o della consonante che stai dicendo, tu metti la lingua e la bocca in una maniera diversa, per cui risuona da una parte o dall'altra della faccia proprio, perché poi non sembra, ma non è che tutto si svolge dal palato in giù, cioè in realtà molto fiato poi finisce anche nel naso, nelle cavità nasali, insomma. Quindi a seconda di come muovo la bocca, risuonerà il mio suono in una maniera o nell'altra. Quindi chiaramente, questa è una cosa che potete facilmente capire facendo le i, per esempio, cioè, che ne so, le e, se fate una e così, la e chiusa risuonerà sul davanti, cioè sui denti quasi. La I invece risuonerà, quando io dico risuonerà, la potete verificare facilmente sentendo vibrare, cioè quando sentite una vibrazione proprio vi trema la bocca in un punto preciso, ci vuole un certo orecchio e una certa una certa consapevolezza di sé per sentirla questa cosa, però piano piano sentite che è un suono localizzato in un punto ben preciso della vostra bocca. La I, ad esempio, si concentra nel palato alto. e sentite proprio un calore, una vibrazione in un punto molto preciso del palato, che è fatto con una forma precisa. Il palato ha questa forma un po' a grotta, come si può dire, a conchiglia. E quindi è una cassa di risonanza perfetta. Se invece la butto verso i denti, che oltretutto i denti sono non più cartilagini, sono ossei, quindi hanno un certo tipo di rifrazione, la E appunto si sbatte sui denti e il suono è già un suono diverso. La O e la U invece sono suoni più aperti, che risuonano più nella guancia, insomma, cioè, sono suoni che non per niente sono più morbidi e meno duri, meno acuti poi anche. E questa è un tipo di importanza. L'altra importanza è quella della gestione della pressione del fiato, che lo dicevi anche prima. Chi canta lo studia davvero per anni. Sì, perché tu lo regoli innanzitutto col diaframma, facendo un grosso di lavoro sotto il vocal tract, non c'è versi, e poi però lo fai anche sopra. Beh, c'è un certo livello in cui, soprattutto se fai bel canto o lirica, okay, in cui tu lavori anche proprio sulla glottide, ma se no, tipo nel canto moderno, generalmente si opera sotto la... fiato. Sì, è come se fosse una clessidra un po' il corpo umano, no? Cioè si opera sotto, nella parte di sotto, la strozzatura non si prende in considerazione, che invece sarebbe la gola, eccetera, e poi si opera sopra. Quindi nella bocca, nel come io tengo aperta la bocca, nel come direziono il fiato. Si faceva l'esempio un po' stupidino prima delle cantanti a Sanremo, no? Che allontanano il microfono. Sì, maledette. Perché loro urlano in realtà. Perché non sanno gestire bene il fiato, ecco. Generalmente, perché uno non avrebbe bisogno di regolare il volume attraverso il microfono. Sì, cioè non c'è bisogno di allontanarsi per parlare più piano. Se io voglio parlare più piano, continuo a parlare più piano, ma sono alla stessa distanza. È una difficoltà maggiore, perché se io sto urlando e devo serrare, quindi c'è il rischio che io stoni, o comunque che non, l'emissione non sia... Sì, perché sono delle capre, perché se no... Hai capito, Dolce Nera, sei una capra. Capito? Perché, sì, vabbè, poi è anche un vezzo che uno fa perché si dà un tono, però in realtà è una roba che, boh, io odio, perché in realtà, no, cioè, se tu hai una certa padronanza del fiato, questa cosa la regoli bene, a prescindere dal... Se no, voglio dire, se non hai un microfono, come fai? Cioè, se devi cantare senza microfono acustico, mori, come funziona? E vabbè, ad esempio sulla gestione della pressione del fiato ci sono delle differenze molto importanti tra alcuni tipi di vocali e alcuni tipi di consonanti. Per esempio, ora io non mi dilungherò perché sennò veramente si fa tardissimo, però diciamo che, dicendola proprio brutale, ci sono due meccanismi che vengono chiamati così, fondamentali nella voce, che comprendono tutta una serie di cose che avvengono nel vostro corpo. Uno è il meccanismo pesante, che è il meccanismo di petto, del registro di petto, altrimenti detto, che essenzialmente è tutta una serie di cose che avvengono quando voi fate delle emettete delle frequenze, delle tonalità medie, per voi comode, quindi quando si parla banalmente. Se io parlo con il meccanismo pesante. Esatto. E ci se ne accorge perché risuona nel petto. Se ci si mette una mano sul petto si sente vibrare. Questo vuol dire che sto usando questo meccanismo che viene detto meccanismo pesante oppure registro di petto. Altrimenti c'è un altro meccanismo, ce ne sarebbero anche altri, non ce ne sono solo due, però per ora, per quello che ci interessa, ci sono questi due, che è quello leggero, che è il registro di testa. Questo meccanismo leggero, invece, quando lo attuate, è quello che attuate quando fate delle tonalità e delle frequenze molto alte. Molto alte, nel senso che si tende a ritardare il più possibile, cioè si tende a rimanere nel registro comodo il più possibile. Quando proprio non ci si fa più, si usa questo registro di testa, detto comunque meccanismo leggero. E essenzialmente, vabbè, non assolutamente non entro nel cosa succede, perché sennò ci va una trasmissione a parte. Però questo meccanismo fa sì che voi facciate con un certo grado di comodità le tonalità più alte, delle frequenze più alte, eccetera. Sì, esatto, ora c'erano degli infrasuoni. È tornata Nenia. Vi metto una nota sul registro. Ecco. No! Ci ha sgamato. Ecco. Allora, come si sente? È tornata bene? Con dell'alcol. Bene, bene, bene. Sì, lo spirito per pulire i vetri. Spirito libero. Sì, sì, spirito libero per pulire i vetri. E sì, e quindi la, le vocali, ad esempio, parlavamo delle vocali, le vocali chiuse, la I, la O, la U e la E, incoraggiano, si dice, il meccanismo leggero, quindi il meccanismo di testa, perché in qualche maniera assottigliano il, prima si diceva, no, il vocal tract, la chiusura delle corde vocali, eccetera, incoraggiano a usare meno fiato, perché chiaramente c'è un'apertura minore, quindi c'è una pressione maggiore, perché ci sono le corde vocali che sono più chiuse, e quindi insomma, in un certo modo è più facile mettere delle frequenze e delle tonalità più alte, motivo per cui quando si fanno nello studio del canto i maledettissimi vocalizzi su tonalità alte si fanno con le I. O con le E, eccetera, perché appunto rendono più comode ed è più facile e incoraggiano un po' questo meccanismo. Ora io magari, non so, arrivo a metà del discorso, avevo delle urgenze da smaltire, da gestire. Da smaltire anche domani, ce l'avrei. Anche dopo. Però mi pensavo al discorso di delle cantanti, soprattutto quelle più famose, per le quali vengono scritti dei testi, vengono scritti ad hoc in base alle capacità poi Mina di gestire, giusto? Sì, abbiamo citato Mina, però in effetti ce ne sono tante altre. Cantanti in generale, ora mi veniva per l'appunto in mente Mina, per quello l'ho fatta al femminile, però sì, penso poi sia una cosa che riguardi tutti sì. I cantanti, ok? Sì, c'è d'altra parte anche la capacità nel cantante stesso, che se tu ti trovi a interpretare un pezzo che non è stato scritto appositamente per te, o comunque che cioè è stato scritto perché, cioè non apposta perché qualcuno dovesse cantare in quella determinata maniera, sei te che devi in qualche modo limare la parola che stai dicendo. Quindi in realtà, soprattutto nel canto lirico e nel canto antico e barocco, c'è uno studio maniacale sulla dizione della singola vocale e della singola consonante, che spesso passa dallo studio, ad esempio, di intere frasi solo con le vocali. Per riuscire è il motivo per cui, scusami, è il motivo per cui tanti cantanti lirici, in realtà, anche se stranieri, sanno dire quasi alla perfezione una frase di cui forse non conoscono il senso? Beh, sì, in qualche modo sì, e anche perché non si possono sentire altrimenti e quindi gli fanno due palle così, perché sennò veramente, ciao bella, cioè non si può sentire. E quindi gli fanno un po' di pressing, soprattutto ora, cioè se sentivate in passato c'era dei casi di cantanti lirici meravigliosi che però c'erano una dizione. Io mi ricordo la Kallas, che essendo greca aveva questo accento durissimo quando cantava, sì. Era molto tutta alla faccia di Demetrio Stratos, che fra l'altro lui, eh sì, però sì, comunque sia si tende a studiare il singolo fonema, il singolo dittongo e magari calcare l'accento su una cosa piuttosto che un'altra, o a volte anche quasi un po' barando, se c'è una cosa che proprio ti dà fastidio, cercare di limarla. O mettendola a volte, o comunque smussandola, per cui magari un iniziale con un attacco particolarmente fastidioso, tu lo sfumi e dai più importanza alla vocale che viene dopo, per esempio. Ti appoggi sulla vocale successiva, che ne so, se devo dire la G è la G dura, è un attacco veramente faticoso. Se tu devi dire, che ne so, una cosa che inizia con G, tu sì, magari ti appoggi più sulla I, cioè fai G, cioè cerchi di smussarla, di dire una G che invece di essere dura è una J. Ci sono vari trucchi. E salta fuori la bossa nova così. Esatto, esci, batte, esci. Atti, o bel masetto. Atti, o bel masetto. Anche masetto è un po' difficile. La M si presta. La M si presta, ma il resto Masetto. Poi c'è quella T che ti blocca. Lì fai etto. No, non lo fai. Ora la stiamo confluendo nella figa del gatto qui, eh. no, in realtà dipende anche da la melodia su cui è appoggiata la frase, nel senso che molto spesso la musica ti aiuta, sì. Nel senso, non tutti gli attacchi, cioè l'attacco nel canto è una cosa fondamentale, però a seconda della ritmica io posso dare più importanza o meno a un dittongo piuttosto che a un altro, cioè alcuni possono venire a ruota un po', l'importante è un po' l'accento su cui, mi, su, scusate, cui è fondamentale. Sto immaginando le più famose aree di... dell'opera omettendo consonanti e qua e là. Ma che tu cioè, in realtà le senti già così, non te ne accorgi. Esatto. Papagena e papagena, insomma. Ah, Gena. Se ti ricordi, una volta si sentì, ma penso perché si guardava il film Frankenstein Junior sul finale, sempre libera, sì. Ma non si capiva assolutamente niente di quello che diceva. No, ma guarda, veramente, uno degli esercizi più utili e che ti fanno fare spesso è proprio quello di cantare tutta la melodia senza consonanti, okay. Perché togli gli ostacoli, di fatto. La impari a gestire bene il fiato, a quel punto sei pronto e puoi reinserire le consonanti. Però, cioè, per no. Dire la malattia, no? Ilarità su Radio Uomo. Ah, le risa. Ah. Quanto siamo nerd, sì, ma perché Federico Maria Sabelli non ci ascolta, visto che abbiamo detto, ah, le risa. Davvero. Ma meglio, ah, ci ascolta, risa, perché lui... Bisogna in realtà forse barocchizzarci un pochino di più. Io ci provo la fuga del gatto. Lo invitiamo, lo invitiamo. Dio c'è una zanzara. Ecco. Ma... Io no, vi vorrei far sentire a questo punto quello che la voce può fare, brevissimi pezzettini di... Quello che... Questa è una cosa che fa. No, sono favolevole. O siete invidia pronti? O paura. Tutte e due le cose contemporaneamente. Questo viene fatto dalla voce, incredibile, cari miei. Sì, questa in particolare è una diplofonia con sentiamo il fischio anche, che è una cosa piuttosto rara, bella, molto bella. Cioè, sì, fa anche un po' impressione, mi rendo conto. Sì, però è un guru, penso, da quanto ho capito. Sì, Alex, poi è ragazzino. Glenfield, sì, è un giovinotto. Wow. Beh, prima citavamo Demetrio Stratos, pure lui era, cioè nel senso ne sapeva, cioè Demetrio Stratos sulle diplofonie faceva della roba incredibile, appunto lì col fischio, tutte queste robe qui, mamma mia. E c'è tutto il canto tuvino, che sarebbe della regione del Tuva, che sì, che di fatto, cioè ti fanno queste cose da sempre, da generazione in generazione si tramandano. E loro, tra l'altro, è molto interessante. Io non ne so abbastanza, però per voi potrebbe essere molto bello perché loro vanno per imparare il canto armonico, studiano i fonemi degli animali, cioè nel senso loro ad esempio ogni singolo, ora in questo esempio sentiamo vari tipi di diplofonie e di canti armonici, per fare ognuno delle quali loro studiano degli animali, tipo c'è l'orso, che ora non mi chiedete come si dice orso nella Repubblica di Tuva, però ha un nome che ha un tipo due o tre fonemi particolari che se detti velocemente formano, poi ti portano a dire a fare un canto armonico di fatto. Quindi la loro lingua è molto molto molto legata al canto armonico e alla gestione della voce in questo senso. Quindi loro per insegnarti il canto armonico ti dicono: ok, ora si fa l'orso, ora si fa l'alce. Ma per loro ha un senso, perché già solo dire la parola alce per loro è cantare in questa maniera. Però c'è qualcosa di simile in Sardegna, se non sbaglio, no? Nei canti sardi c'è qualcosa, mamutones, sì, no? Esatto, che anche sì. Loro, se non sbaglio, imitano il canto di un animale. Io non li ho messi per non fare la campanilista. Però quelli vanno, anche loro vanno visti e ascoltati. A parte che visivamente, cioè proprio sono dal punto di vista estetico, fanno paura. Sì, sono tutti tenores, sì. Sono quelli famosi, tenores de Bitti, però sì, ce ne tanti gruppi, hanno più o meno questa impostazione. È una quasi sì. Una... Ah, ci questo, sono questo, anche... senti questo, alza. No, vabbè. No, scusa, perché lì proprio cantava e nel frattempo però faceva una terza voce con il fischio. Infatti nel video, in questo stacco qui, perché si trovano anche i video su YouTube, nel video c'è... si vede proprio lui che con la bocca inizia a fare qualcosa di diverso, cioè non so, si vede nella bocca, nel movimento probabilmente della lingua o nell'apertura, ora non mi ricordo, però si vede proprio entrambe. Questo stacco, wow, fenomenale. E poi vabbè, ci sono anche altri classici, un po' meno classici, però... cioè, ragazzi, se non è anche questo. Lui è Beat Fox, è un londinese, uno dei più grandi. Bello. Tutto con la bocca. What's going on? This is Massive Shout of Swiss Beatbox, my friend. Sì, anche lui. I'm with the name of Beat Fox from London. Just breathe. I can't feel my face when I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my place when I'm with you. I can't feel my place when I'm with you. I can't feel my place when I'm with you. Back and for more, walk on for more, walk on for more, walk on for more, back and back and back and back and back and feel my face. Cause of the fucking bass. Hai capito? Che bello. Tutto con la voce, tutto da solo, senza ausili. Anche la beatbox non è tanto diversa da quello che si diceva prima, il canto armonico, perché anche lì sono fonemi singoli. Cioè il trucco è spezzare, non lo dico perché lo so fare, perché non lo so assolutamente fare, però ho seguito un seminario e alla fine si tratta di spezzettare in piccoli segmenti molto molto piccoli, che sono poi alla fine dei fonemi, e tu ti alleni a dire quella cosa e sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, più, sempre più velocemente, sempre più velocemente, e alla fine il risultato è questo, se sei un mostro. Lo spezzettamento, vedi? Ce lo ascoltiamo anche un altro mostro. No, perché io lo vedo qua, ma non capisco, non potrei, cioè, non resisti. No. Siete pronti? Sì, c'è tutto l'intro un po'. Ok, ok, ma qui arriva. Potreste indovinare. Eccolo! Balla! Io voglio imparare anche a usare i cucchiai. Riceviamo telefonate intimidatori in studio per basta, dirci di smettere. Basta, io muoio. No, io vi devo confessare che cioè, ti sei divertita tantissimo. Questo sicuramente. Però vi devo confessare che lo yodel mi fa effetto insetto steak, cioè a me fa schifissimo. Perché si muovono tutti a scatti. Ho questa idiosincrasia, ve lo devo dire pubblicamente. Yodel, break dance. Tu dovevi venire con noi in Austria, allora una sera siamo arrivati con Bad Girls, siamo arrivati in questo locale dove dopo una carrellata di rock, i Kiss, queste cose qua, che insomma dai, ci possono anche stare, sono arrivati questi ragazzi tutti vestiti da festa ma con i pantaloncini di velluto corti e la solo fest, e hanno iniziato a ballare l'electro yodel, cioè no. Queste cose che avete sentito, Cristo. Remixate e sì, facevano il passo della caviglia. Io sarei svenuta secca. Tante persone testimoni. Sangue dal noi naso. Noi ce ne siamo andati, avevamo ancora le birre in fobie. Vabbè dai, sai che? Sì, fobie su Re-Educational esatto. Channel. Fobie. Fobie, mbuti. Mbuti e yodel. Allora, io ho le ultime cose da dirvi, sì, le ultime cartucce. Non ne ho tante, ne ho veramente poche. E che sono le consonanti, perché prima abbiamo parlato delle vocali. E ora ho le consonanti, su cui non è che c'è tutta sta roba da D, però essenzialmente... Cioè tutto quello che abbiamo messo prima erano consonanti. Sì, in parte l'abbiamo già detto, insomma, che sono fastidiose e cattive. Non sempre però. Per esempio, allora, le dure occlusive, quindi la G, B, la B, la B, la P, madonna, è difficile. Batti, batti, te l'avevo detto. Batti, panni. Patti, patti. La P, la D, sono... tutte delle consonanti che interrompono il flusso del fiato in qualche maniera e quindi chiudono le corde. Il problema spesso è nel non chiudere le corde vocali e cioè cercare di ostacolare il meno possibile il flusso del fiato e la gestione che si era faticosamente trovato. Cioè io ho trovato un'economia del fiato e dei muscoli, ma arrivo una G e mi sciupa tutto. Allora si cerca, cioè queste qui sono proprio cattive, e nella via di mezzo ci sono le fricative, le S, le Z, le V, che sono un po' meno chiuse delle occlusive e sono anche una di quelle cose che aiutano a regolare il fiato. Quando si impara a usare il diaframma si usa la Z per regolare bene il fiato, e sono una via di mezzo buona, sono morbidi, non sono troppo brutali, eccetera. Poi c'è quella cattivissima, cioè quella proprio che non va fatta, che se un paroliere te la metti cancellata. No. No, no, no, no, no, la H, che per fortuna in Italia... Boh. Oibo. Però perché la H è di una cattiveria clamorosa. Serve il triplo del fiat. Cioè no. Allora, innanzitutto la H c'ha un po' di, cioè butta un po' di fiato, quindi buttare troppo fiato nelle corde vocali, siccome le corde vocali devono essere sempre lubrificate e come si dice, liquide in qualche maniera, cioè deve essere sempre, infatti bisogna bere molto, infatti tantissimo acqua in genere, no, però non importa, non importa, anche la birra io lo consiglio, esatto, sempre ai miei allievi, e patatine, e patatine perché ungono, sono una insegnante un po' così, è una brava insegnante. Sì, penso che se ci fosse un album mi radirebbero, ma meno male non c'è. E quindi in realtà appunto questa qui ti asciuga un po' le corde vocali, la H, così, e quindi già va malissimo, non va già bene. E poi la H causa quella che viene chiamata la pausa glottale, ovvero se voi fate tipo, che so, la mossa del karate che tutti voi farete sempre, ovviamente, no? Ha! Quella, ha! Quella lì, le vostre corde vocali si stanno chiudendo, ora rifaccio il gesto della mano, tac, okay, si stanno chiudendo bruscamente, e questa sta cosa... Ha detto bruscamente. Bruscamente. Oh, palla! Sono entrata ormai nel mood. Sì, sì, sì. E questa cosa fa malissimo, perché comunque già ho le corde tutte raffreddate. È un po' un trauma, e poi devo usare un sacco di muscoli che non va fatto, cioè... Quindi la H è proprio una roba che dici, madonna, ma perché sta H? E quindi tutte queste robe, magari, che poi la H, insomma, di per sé non è che si pronuncia, però diciamo che le cose un po' aspirate... Sì, crea quell'aspirazione tale, ok? Sì, danno ecco, proprio... quella è proprio la cosa sbagliata, che infatti si cerca di non fare mai. Quelle invece, dal lato opposto, quelle veramente ok, sono le morbide. Le buone. Le buone, che sono le morbide. Le buone partenze. Eh sì, i buoni propositi. No, che infatti si chiamano morbide, insomma, morbide già ti dà, te la mette bene, insomma, le morbide, insomma, si chiamano dure. Invece no, sono morbide. Cioè, no, sono morbide. Cioè, che... che logica ferrea. Però le morbide, tipo la M e la N, sono le consonanti per antonomasia che ti facilitano la dizione e la fonazione. Quindi aumentano il flusso del fiato, ma te l'aumentano in maniera regolata, non in maniera eccessiva. Quindi tu hai, che ne so, la M... Sono buoni attacchi. Sono buoni attacchi, anche perché la lingua sta sul palato. Non essere geloso se con gli altri vanno. Capito? Non essere. Perché effettivamente ti dà come un trampolino che ti proietta sulla O. Non essere. È perfetto. Martello. Esatto. Ma datemi un martello. Abbiamo svelato tutti i trucchi. Tutti i trucchi delle cantanti anni 60. Sì, proprio Pavone, Caselli e la Mina. Ci credo. Ci avete segreti per noi. Au. E sì, e quindi niente, quando fateci l'occhio, quando sentite delle cose, che ne so, con delle S, delle F, delle G, delle K, sono, madonna, lì sono bravissimi, cioè se c'è della gente che fa dei numeri con queste consonanti qui, dovete aumentano i punti stima. Invece le M, vabbè, dai. Se questo fosse amore. Facile. Se questo fosse amore, amore quello vero. Sì, esatto. Vabbè, basta, io ho esaurito le cose da dirvi. Grazie. Brava, una lezione preziosissima questa, cari miei, capito? Qui mica si frigge con l'acqua. Si frigge col bloody Mary. Sì. Avete mai provato a friggere, frigge, mettere un bicchiere punto di acqua fredda dentro? Fatelo a casa, no, mi raccomando. Subito consigli sbagliati. Non fatelo voi a casa. Morti. Allora, a questo punto noi salteremo il pezzo quello medio serio. Passiamo direttamente al pezzo serio. Lo vogliamo dire di chi è? Oppure ma io mi vergogno. Un pezzo a sorpresa. Dai, allora, dai, questo dai, pezzo dai, noi lo mettiamo e Maremma Mara. Il titolo vero e proprio è solo Maremma? Sì, è Maremma. In realtà la versione questa qui è un'accoppiata di due versioni, che sono la canzone più famosa, quella popolare, Maremma, okay, è solo Maremma, okay, e una che era ancora più antica, mi sembra del 1800 addirittura, francese, di origine francese, che però in realtà era lo stesso motivetto e che era sempre un motivetto, parla di... io lo so, antimilitarista, okay, di fatto, perché la gente è obbligata ad andare in guerra e sfiga varia. E poi è stato ripreso invece da Maremma, ma, cioè Maremma Maremma, che invece era un che... canto più sulla Maremma e sulla l'emigrazione, le sfighe delle, della Maremma, della povera del Maremma. Però in Maremma c'è nato anche Buffalo Bill, ragazzi. E tutto torna, e tutto torna. No, non era è verissimo. Era andato a studiare come i butteri fossero più bravi, ma dei mandriani americani. Ma e perché non me l'avevate mai detto? Ma veramente. Sono notizie che mi arrivano da sottobanco. Guarda, sotto peccato banco, che non si può vedere il video perché sto facendo lo stuporone proprio. Ma soprattutto, quindi tu sai cioè, sai un sacco di cose su questo pezzo. No, no, no, ne so veramente due. Ma... va bene, no, no, niente. No, non so nient'altro, se mi chiedete altre cose non le so. Va bene. Quindi ascolteremo questo pezzo cantato da qualcuno. Che vergogna, è colpa loro, io non lo volevo mettere, io non voglio mai mettere le mie cose. È stata la big surprise. Ma no, poi scusate, qua si parla di regionalismi, di minoranze etniche e linguistiche soprattutto. Maremmani. Maremmani, dai. Ma Giulia ci insegna. Tanta simpatia per i maremmani. E a proposito di maremmani, io faccio, no, non lo faccio il gossip. Comunque a seguire c'è un'autodate, per questo ecco, mi ha fatto tra un po' voi. Tra uno l'altro più gli uno. Stiamo anche rubando dei minuti preziosi, hai capito? Tu che vuoi essere sempre puntualino. Allora vi facciamo ascoltare questo pezzo bellissimo. Cantato, ma forse l'avete capito, forse no, chi lo sa, non lo diciamo, però è la nostra ospite ha cantato questo pezzo, ma si vergogna, non lo vuole dire. Non lo dite a nessuno. Caracuri, caracuri, caracuri. Era come per ringraziarti della tua partecipazione e della pazienza che hai avuto nel starci dietro in questa puntata. Ma anche puntata. Della precisione con cui ci hai spiegato un sacco di cose che sono interessantissime. E della super professionalità. Oh, wow. L'abbiamo detto, solo gente professionale. Ma poi siete gli unici che mi invitano, quindi figurati. Io guarda, secondo me te potresti venire molto più spesso di quello che pensi. È che un po' esaurito le cose a dire, ma posso far finta di saperne di tante no, altre. Ti dico che ce ne saranno poi tante insomma altre, sperimenteremo per cui. Potremmo sì, anche sì. Fare non so un programma di canto noi tre così in diretta. Che bello, che bello. Saranno contentissimi i nostri ascoltatori. Sì, sì. Sì. Beh, la tripletta cetra l'Accademia della Brusca. Il trio Mantalaffo. Mantalaffo è materasso in sardo, ah, è una parola bellissima. Mantalaffo. Basta, allora ciao. Vi lasciamo, vi salutiamo. Giovedì prossimo. Abbiamo saltato tutto quello che dovevamo fare, ma tanto il sito agenda. Lo conoscete, Facebook, tutte quelle robe lì, tanto ormai lo sapete. Bla bla bla. La agenda della settimana la faranno gli altri. Quindi ciao, ciao, buon ciao. Ascolto, ciao. Tutti mi dicono mare, ma mare, ma a me mi pare amare, ma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara. Sia maledetta Maremma, Maremma. Sia maledetta Maremma che l'ama. Sempre mi trema il cuore quando ci vai, che ho paura che non torni mai. Dove comanderai? sovrano. Chi prenderà la strada di Bologna e chi andrà a Parigi e chi a Milano. Se dal partenza cara ti sembra amara, non lacrimare, vado alla guerra e spero di tornare.